Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Occhi a me, buongiorno da Nicoletta. Quando si parla di vista e dei meccanismi molto sofisticati che permettono la visione, si usa paragonare l'occhio ad una macchina fotografica. Allora, ogni parte del nostro occhio, infatti, è deputata ad una funzione, ad un compito preciso, un po' come succede con le parti di una macchina fotografica. Lo sapete? Lo conoscete? Allora, oggi ci mettiamo alla prova e ci aiuta un grande esperto. Abbiamo il piacere di avere qua in studio, ed è un avvenimento, cari amici, poi vi dirò perché, il professor Paolo Vinciguerra, responsabile dell'unità operativa di oculistica all'Humanitas. Buongiorno, professore. Buongiorno, grazie mille. Quasi destini incrociati, lei mi diceva, no? Sì. Citando una trasmissione di Radio 24. Vostra. Destini incrociati perché, se voi pensate che la storia dell'oculistica e della fotografia si incrociano continuamente e che le conoscenze che derivano dalla fotografia sono spesso tradotte più tardi da noi, più tardi. Questa è l'altra cosa interessante. E io credo che nella mia carriera la mia passione principale, che è la fotografia, mi abbia aiutato molto, perché ho potuto vedere in qualche modo in anticipo le cose che sarebbero successe da noi. Questo quindi, è fantastico. Questo è interessante. D'altra parte, pensate una cosa, che la prima macchina fotografica che ha diffuso la fotografia nel mondo come la conosciamo noi, che era Leica, nel 1922, per progettarla erano andati all'Università di Berlino e in Svizzera, dove c'erano i più grandi oculisti del tempo, e gli hanno chiesto: ma la risoluzione della retina quant'è? Perché è inutile fare una macchina fotografica che ha una risoluzione maggiore. Poi gli hanno chiesto: ma il campo visivo di un occhio normale quanto è? La luminosità dell'obiettivo nostro quanto è? Gli hanno detto 2,8, cioè gli hanno dato tutti i dati, e loro hanno fatto la macchina pensando in rapporto all'uomo. Ed è per quello che è stata la prima macchina piccola, e non quelle col telo che si metteva sulla testa, con il banco ottico, col soffiettone di legno. È stato partendo dalla fisiologia, quindi i primi destini che si incrociano sono proprio quelli. E noi oggi giocheremo incrociando questi destini, daremo modo anche ai nostri ascoltatori, anche agli ascoltatori appassionati di fotografia, di giocare un po' con il professor Vinciguerra, che ci ha svelato anche questa sua grande passione, questa grande esperienza. 800 24 00 24, oggi chiariamoci le idee sulla nostra vista. Tra l'altro, ottobre è proprio il mese dedicato a questo senso straordinario. Il tema della giornata sarà prevenzione, vedi la differenza. E ci sono tante differenze anche nella nostra quotidianità che notiamo riguardo alla nostra visione. Professor Vinciguerra. Ma tutto sommato, vedete, gli autotest, ancora una volta ci si incrocia con la fotografia, perché voi pensate che gli appassionati si testano gli obiettivi, vanno a vedere. Noi possiamo fare una cosa semplice. Periodicamente noi abbiamo dei sistemi per misurare che l'acutezza visiva non cambi. Non so, possiamo guardare televideo a una certa distanza, il nostro televisore, perché i caratteri sono piccoli, possiamo vedere il nostro calendario in casa per vedere se riusciamo a vederlo, e questo possiamo testare alcune cose, che la vista sia limpida, che non vediamo le immagini deformate. E poi una cosa su cui spesso si parla poco, mentre in fotografia se ne parla da tanto, e adesso ve lo racconto, è il contrasto. Il contrasto, cioè? La differenza che c'è fra il bianco assoluto e il nero assoluto. L'uomo, e questo l'ha scoperto la Zeiss tanti anni fa, avevano fotografato dei vetri di una cattedrale gotica, e poi avevano con tanti obiettivi. Poi avevano chiesto agli esperti, e erano rimasti sorpresi che tutti sceglievano le immagini con una risoluzione bassa, ma dal contrasto elevato, perché il cervello lavora sul contrasto e non sulla risoluzione. Quindi quante volte si sente dire: i televisori oggi devono essere ad alta risoluzione, a 3D, ma l'uomo lavora sul contrasto. La differenza di luminanza, che dovrebbe essere quella che dovremmo guardare, è molto più importante di queste cose, perché il contrasto rende rapida, perché noi siamo dei predatori. E quindi abbiamo bisogno del contrasto. Vi faccio un esempio. Voi siete seduti in un campo di grano, vi guardate l'orizzonte e non succede niente, e non siete attirati, ma se una spiga si muove, il vostro occhio istantaneamente si muove in quella direzione. e quella è una modificazione del contrasto e il cervello ragiona su quello. Quindi contrasto, una parola da tenere a mente, da considerare anche alla luce di quello che ha detto il professor Vinci Guerra, e cerchiamo un pochino di vedere nella nostra quotidianità quali sono le nostre percezioni, come vediamo i colori, di che intensità vediamo bene le immagini, i loro contorni, a volte vediamo doppi, abbiamo degli aloni che ci disturbano, specie quando guidiamo la notte. 800 24 0024. Tony, grazie a Dio. Amico, qui entrano solo i residenti e gli ospiti. Cosa? Ma di che stai parlando? Jack Campbell, attico C, che cosa ti prende? Signora Peterson, credo che il nostro Tony non si senta molto bene oggi. Chi è quest'uomo? Oh, andiamo. Cosa avete voi due stamattina? È una specie di scherzo natalizio? Coleman, puoi farmi entrare? Non mi funziona bene la chiave. Chi è lei? Che cosa vuole? Coleman, tu togli la catena e fammi entrare. Ti prego, non scherzare, non è il momento. Coleman? Non ci sono Coleman qui. Lei si sta sbagliando. Ah, sarà capitata anche a voi, state camminando per strada e tra la gente individuate una faccia, un volto che vi è noto, però non riuscite a identificarlo. E avete questa spiacevole sensazione di non sapergli dare un nome o una collocazione, ma questa dissociazione tra il riconoscere e il ricordare dimostra in fondo quanto il nostro cervello sia sensibile ai messaggi visivi. Ne parliamo con il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno professore. Bentrovata Nicoletta, buongiorno a tutti. Buongiorno. Professore, perché ci affidiamo così ciecamente alle immagini mentali? Ah, io comincerei sparando la grossa, per convenienza, perché in pochi kilobytes, per parlare di allegati che spediamo per posta, noi riusciamo a compattare molte informazioni. Le immagini mentali sono delle informazioni zippate. Allora, sentivo prima il collega con grande attenzione, in realtà il nostro organo della vista, la nostra retina, mi permetto, se me lo consente, di paragonarlo a un fotoreporter del nostro cervello, il quale è invece il lettore di codice a barre, cioè trasforma questi segni neri o colorati che noi vediamo nel loro significato. E per trarne il significato, il cervello utilizza sia le forme con il suo lettore che i colori per identificarne e farne un'immagine, quindi un insieme di segni con un significato. Una cosa interessante, che può essere anche un piccolo gioco per gli ascoltatori, è provare come a volte le informazioni delle forme e dei colori facciano aggomitate per consegnare per primo il compito al cervello e si sbaglino. Allora provate a fare questo stasera, non con i figli perché sono più svegli, ma con amici o i partner. Dai. Scrivete in rosso la parola verde, scrivete in verde la parola rosso, scrivete in blu la parola nero, in nero la parola blu, e insomma è così via dicendo. E poi chiedete, mostrandolo all'improvviso, ditemi di che colore sono queste parole. Vedrete che ve ne diranno una giusta e una sbagliata. Quindi, insomma, un lettore di codice a barre che utilizza varie informazioni, ma a volte tra colori e forme può sbagliarsi. Professor Barbanti, sì. Un secondo aspetto, ecco, per non vorrei eludere la domanda con questo giochetto interessante, è che le immagini ci consentono di riconoscere. Se noi passeggiamo per una strada affollata, penso a Via del Corso il sabato a Roma, il cervello manda a spasso il suo fotoreporter, cioè la retina, guarda ma non vede, e cioè scatta delle foto che io avrei definito prima a bassa definizione, adesso dico a scarso contrasto, in bianco e nero. Poi a un certo momento c'è un viso, non la spiga magari nell'esempio precedente, ma un viso noto, ed ecco che c'è uno zoom, un primo piano, un alto contrasto, un colore. Riconosciamo tra le nostre foto segnaletiche, come un finanziere o un doganiere alla frontiera, il viso e gli diamo un significato. Tant'è vero che quando il cervello può stare perfettamente tranquillo e pensare, cosa fa? Dice al fotoreporter, va in vacanza, cioè chiude gli occhi e riflettiamo occhi chiusi. Abbiamo in linea con noi Livio, che ci chiama da Novara. Buongiorno Livio, benvenuto, buongiorno a lei. Salve, buongiorno. Senta, un'informazione riguardo alla percezione dei colori. Io ho un'alterata percezione dei colori rispetto alla quale naturalmente so dire molto poco, visto che appunto è alterata, con difficoltà a distinguere per esempio una scritta scritta azzurra su sfondo rosso o viceversa, una scritta rossa su sfondo azzurro. Volevo chiedere. Quindi se fa il gioco suggerito dal professor Barbanti, professor Vinci Guerra, Livia avrebbe delle difficoltà. Come mai, professore? Magari vince perché non vedendo i colori non è confuso dalla scritta. e tira a caso. Adesso scherzi a parte. Il daltonismo, cioè la malattia di non riconoscere i colori, è molto diffusa. Quasi il 30% della popolazione ne è affetta, soprattutto nell'asse rosso-verde. Per cui una cosa che io consiglio nelle scritte: usate poco le unioni rosso-verde, perché il 30% della popolazione non lo vede. Però non è poi una... Questo avviene perché il numero di i fotorecettori sono come i pixel, ancora una volta, in una macchina fotografica. Sapete che alcuni sono dedicati al verde, altri al blu, altri al rosso. Ci deve essere un mix giusto nei sensori. Nell'uomo alcune volte prevalgono alcuni fotorecettori dedicati a alcuni colori e altri no. E quindi questo daltonismo non è assoluto, alcuni ce l'hanno un po' più marcato, un po' meno marcato, e ancora una volta l'ottica si intreccia alla medicina. C'è un'azienda tedesca che ha trovato un sistema di contrasto per determinare la percezione del colore, che già si faceva da tempo, ma la profondità del difetto, cioè sapere quanto sei cieco al verde, se sei daltonico al rosso-verde, quanto al rosso. Per cui la scoperta nuova è che alcuni daltonici sono daltonici a bassa luce, ma col sole non lo sono più, perché il contrasto aumenta, e quindi questa è un'altra cosa bella. A proposito di percezione, vediamo il mondo in modo diverso, noi donne da voi e voi da noi, sentite. Blu, nocciola, verdi, se gli occhi di uomini e donne sono davvero simili all'apparenza, il senso della vista sembra avere invece sfumature molto diverse tra i due sessi. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Sex Difference, infatti, le donne distinguono molto meglio le sfumature dei colori, mentre gli uomini sono più sensibili a decifrare i dettagli delle immagini e gli stimoli in rapido movimento. Gli studiosi della City University of New York di Brooklyn e di Hunter hanno esaminato la vista di uomini e donne di età superiore ai 16 anni, con capacità visive piene e visione normale dei colori. Sottoposte a diversi esperimenti, le donne hanno dimostrato di riconoscere senza difficoltà sfumature di colori risultanti pressoché impercettibili agli uomini. Dall'altro lato, però, gli uomini riuscivano a decifrare immagini sfarfallanti, se non senza difficoltà, molto meglio delle donne. Due modi di vedere le cose molto differenti. Come per l'udito e il sistema olfattivo, vi sono notevoli differenze tra uomini e donne anche per quanto riguarda la vista, spiega Israel Abramov, primo autore dello studio. Gli elementi della visione che abbiamo misurato sono determinati da input di specifici gruppi di neuroni del talamo nella corteccia visiva primaria. Crediamo che dal momento che questi neuroni sono guidati dalla corteccia durante l'embriogenesi, il testosterone giochi un ruolo importante e che in qualche modo porti a una connettività diversa tra maschi e femmine. La spinta evolutiva tra queste differenze è meno chiara. Professor Vinci Guerra, quindi ci sono anche delle differenze di genere? Sì, nelle percezioni? Adesso scherzando, quando io esco la mattina mia moglie mi dice: ma la cintura non è uguale alle scarpe? E questo evidente che l'attenzione è tale che tutte le industrie dell'auto del mondo, il color and trim, che è il modo di accostare i colori all'interno delle automobili, lo affidano alle donne. Quindi evidentemente perché, questo sì, è finalmente l'hanno capito. È una vittoria. Professor Barbanti, un commento prima di salutarci, perché le differenze non riguardano solo le immagini, ma spesso il modo di vedere le cose, perché, per citare un libro famoso, gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere. È vero, ma questo studio mi fa molto pensare. Un uomo che riesce a decifrare meglio il dettaglio e la velocità ha un valore antropologico importantissimo. La caccia, la difesa, riconoscere qualcosa che si muove e ti viene addosso. Viceversa, le sfumature del colore, l'interpretazione dello stato d'animo, perché il nostro viso diventa pallido o rosso se siamo impauriti o se stiamo ridendo, e la mamma decifra, la donna nella sua maternità decifra il viso in maniera particolare. Non dimentichiamo che il cervello ha un'area per riconoscere i visi. Noi da piccoli giudichiamo le persone, hanno la faccia cattiva, hanno la faccia buona, e quindi credo che questo sia il valore. Sostanzialmente il colore vuol dire maternità, il dettaglio potenzialmente difesa o attacco. Grazie, professor Barbanti. Speriamo di averla qua, e di averla qua in studio e vederla proprio in carne e ossa qua a Milano. Colgo l'invito. Deviso. Grazie, professor Barbanti. Arrivederci a voi. Professor Vinci Guerra, riprendiamo la nostra macchina fotografica, seguiamo, possiamo far così, seguire l'anatomia dell'occhio. Partiamo dalla sclera, il bianco dell'occhio, no? Dove si gioca un po' l'autodiagnosi e l'autocura, perché di fronte ad un occhio rosso, a un occhio secco, a un occhio un po' pruriginoso, beh, siamo tutti duturno, e che cosa si fa? Sì. Si mette il collirio, si fa l'impacco, si mettono le lacrime artificiali, poi ci si fa la diagnosi, sarà un po' di congiuntivite, allora vabbè, dai, tiro fuori quelle due goccine. Insomma, è una zona che dovrebbe forse essere, la natura immagino l'abbia dotato di una certa resistenza, ma noi facciamo di tutto per metterla in difficoltà. Dunque, cominciamo a dare un'informazione importantissima. Quello che vediamo, che è il bianco, che è il guscio interno, che è lo scheletro dell'occhio, quello su cui si inseriscono i muscoli, il bianco è più o meno evidente non tanto perché quello è rosso, ma da quanto è spesso il tessuto che unisce la congiuntiva alla sclera. Se è molto spesso, che si chiama fascia, è sempre bianco. Se è sottile lo vediamo rosso, in parte perché i vasi sanguigni sono sempre, quindi se non ho uno spessore che li nasconde, io posso credere che un occhio sanissimo sia rosso. E viceversa, cioè un occhio che invece è infiammato, vederlo bianco, solo perché questo tessuto è più spesso. Quindi attenzione a fare le diagnosi senza poterli osservare con i sistemi di ingrandimento, perché si rischia di dare terapie inutili. Fabrizio da Bergamo e Stefano da Fermo. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno, aiuto, che emozione. Perché Fabrizio? È la prima volta. Ah, ho capito. Anch'io, allora, anche per me è la prima volta che parlo con lei, quindi siamo emozionate tutte e due. Bene. Allora, cosa è successo? Avete presente l'effetto seppia delle macchine fotografiche? Il professor Vinci Guerra sicuramente sì. Ecco, è successo che gonfiando un materassino di color rosa di mia figlia, no? Operazione che ha richiesto 4-5 minuti, sì. È successo che nel momento in cui mi sono rialzato mi si è attivato l'effetto seppia e per un paio di minuti ho visto tutto con questo effetto. Sì. E poi dopo l'effetto è svanito. È tornato il solito Fabrizio. Professor Vinci Guerra. Beh, due motivi. Intanto uno iperventila, quindi cambia la tensione di ossigeno, ma soprattutto lei si è alzato dopo aver fatto un'attività, si è alzato di scatto e quindi ha rubato gran parte del sangue nei distretti periferici, per cui anche nell'occhio a quel punto lì. Voi pensate che negli aerei militari, per evitare questo effetto, le tute si gonfiano quando girano gli aeroplani per impedire che il sangue vada nelle braccia, nelle gambe, se no sarebbero quasi sempre in condizioni paragonabili. Stefano, da Fermo, buongiorno. Sì, buongiorno. A me succede, paragonando alla macchina fotografica, che in certe situazioni dell'anno, soprattutto nel cambio di stagione a primavera e a settembre, che non c'è una messa a fuoco perfetta. Quindi quando io vado a leggere, facendo poi un'attività molto influente, perché faccio il grafico e quindi devo stare molto attento sia alla lettura che alla scrittura che all'impostazione, per esempio in questo momento mi trovo davanti a un cartellone stradale, in questo caso pubblicitario, e quando vado a leggere ciò che c'è scritto devo avere un po' di tempo, come se un obiettivo dovesse usare la messa a fuoco. La messa a fuoco, quindi vede... Sì, Stefano. E vedo un po' annebbiato, ecco, in queste situazioni. Poi se mi focalizzo bene riesco a... Insomma, una macchina fotografica che sembra che faccia un po' fatica a mettere a fuoco. Professor Vinci Guerra. Dunque, innanzitutto la vista bene andrebbe esaminata sempre con la pupilla dilatata. Tornando alla nostra macchina fotografica, si mette a fuoco col diaframma aperto, perché la differenza di l'errore è più visibile, e poi si fotografa chiudendo il diaframma. Se noi non misuriamo la vista in quelle condizioni, uno può avere un difetto di vista nascosto, che è compensato dall'organo interno, il cristallino, che è il nostro dispositivo di messa a fuoco. Per cui questo deve lavorare quando non deve, e questo rallenta la velocità di reazione. Per cui, come nel nostro ascoltatore, ci mette un po' a trovare la messa a fuoco. Se viceversa fosse ottimizzato in tutte le condizioni, la velocità aumenta enormemente. Bisogna poi considerare, tornando al daltonismo, che ci sono obiettivi che sono alterati per la percezione dei colori da un punto di vista ottico non percettivo, cioè non della retina, per cui i certi difetti di vista uno vede meglio il blu del rosso, per cui bisogna spostargli il piano di fuoco su quello giusto. Magari il cartello che lui non si accorge vede male è sempre di un colore, quindi anche questo è un quindi indagio. Occhio al colore anche, individuate sì. Quello che e lo riferite all'oculista in modo che anche lui possa tenere conto. 800 24 00 24, se volete parlare dei vostri occhi, se noi stiamo paragonandoli, seguendoli, no? La loro anatomia e paragonandoli proprio ad una macchina fotografica, la messa a fuoco ad esempio delle immagini, i contorni, la luce. Arriveremo naturalmente anche alla cornea, trasparente, curva come un vetro d'orologio. E professore, la prima lente naturale che la luce incontro, e la sua forma e la sua trasparenza sono fondamentali per la visione. Dunque, Ralph mi ha detto che ti viene il mal di testa quando leggi, è così? Sì, è così. Adesso vedremo quello che si può fare. Dunque, coraggio Fonzi, è sempre la seconda riga, avanti. A, L, M, P, Q, P, T. Perfetto! Adesso con il destro, la riga successiva, per favore. Non ci riesco. Credo di aver capito quello che hai. Il tuo problema è molto semplice. Vedi, l'occhio destro è più debole del sinistro e questo squilibrio provoca il mal di testa. Tieni, ecco qua. Devi mettere quelle gocce negli occhi, Fonzi. Un po' di gocce e basta? Per il momento, finché non saranno pronti gli occhiali. Professor Vinci Guerra, Happy Days dà sempre numerosi suggerimenti e stimoli. In questa scenetta, io vedevo che la seguiva con attenzione, ci sono tante indicazioni. Partiamo dall'ultima, dagli occhiali. Auguriamoci di non fare visite così rapide, perché non sono tanto efficaci, però... Ecco, regola numero uno, sì. Fermatevi. L'analisi deve essere approfondita, il paziente deve imparare a riconoscere la qualità dell'esame, che non può essere un semplice esame della vista, ma deve andare ad analizzare singolarmente gli elementi, perché è dall'analisi dei singoli elementi che viene fuori il tutto. Quindi, quando noi parliamo di occhiali, e parlando, torniamo all'analisi dei singoli elementi, dobbiamo misurare la lente di cui il paziente ha bisogno dilatandola prima e dopo aver dilatato la pupilla per vedere se c'è una differenza fra le due misure, perché questo ci fa vedere quanto il paziente, quando non lo vediamo, fa fatica. Se non prima c'è dopo, quindi io gli faccio sempre la doppia misurazione, perché se non c'è differenza capisco che è ben bilanciato, se c'è differenza vuol dire che lui tutta la vita ha sofferto di uno squilibrio nascosto e quindi va corretto. Ecco, io vorrei proprio chiedere ai nostri ascoltatori, che sicuramente sì, ce ne sarà qualcuno, mi auguro, che abbia fatto una visita un sì, po'. Ecco, se la misurazione è stata effettuata prima e dopo la dilatazione della pupilla. Sì. 800 24 00 24, teniamo la mente. Professore. L'altro aspetto è, altra cosa che si osserva poco, è la distanza fra i due occhi, cioè che noi chiamiamo distanza interpupillare, perché l'occhiale va centrato. Cioè un sistema, voi pensate che un obiettivo di una macchina fotografica, quando è montato, viene testato l'allineamento con delle macchine di una sofisticazione che neanche immaginiamo, e poi quando montiamo l'occhiale alcuni non badano a questo. Però a noi capita di trovare pazienti che tornano da noi dicendo di vomitare o di avere delle crisi di nausea. Alcuni negli anni 50 sono stati anche operati per andare a cercare la patologia gastrica e invece era un disordine dell'equilibrio dato da una centratura dell'occhiale malfatta. Quindi la lente è giusta, ma la distanza, il centro della lente non corrispondeva al centro della pupilla, e questo può dare un disturbo molto elevato. Come una specie di mal di mare. Sì, è simile a quello. Quindi se avete gli occhiali nuovi e vi sentite un peso sullo stomaco, una sorta di nausea, mal di mare, attenzione. Non è detto che sia quello, il cambio del potere della lente potrebbe darlo, però ci sono dei test che noi possiamo fare per identificare il problema di uno e dell'altro, in modo da aiutare il paziente. Tutta questa attenzione che viene messa nella preparazione degli occhiali, immagino tutte queste indicazioni vengano trasferite anche nella chirurgia laser. Nella chirurgia laser e nella chirurgia della cataratta. Nella chirurgia laser, voi pensate il miracolo, la pupilla quando è di notte ha una posizione, di giorno il centro della pupilla si sposta, noi dobbiamo misurare questa distanza fra i due centri, dobbiamo misurare dov'è questo e per centrare perché il laser ne tenga conto. Non solo, ma durante l'intervento laser, che pure dura pochi secondi, l'occhio può avere dei movimenti di torsione intorno al suo asse, per cui il laser deve riconoscerlo, inseguire, non solo inseguire in alto, in basso, a destra, a sinistra, e questo non molti laser lo fanno, e ancora meno laser calcolano il movimento angolare, cioè quando l'occhio guarda in basso non si sposta solo verso il basso, ma ha una presentazione al laser obliqua. Se non se ne tiene conto, il trattamento viene molto peggio. Tra l'altro, parlando di laser e di chirurgia refrattiva, il paziente deve essere selezionato con grande accuratezza. Perché non tutti possono. Il 30-40% non può farlo. Io avrei desiderato tanto, ma non ho potuto farlo. Quindi dobbiamo avere il coraggio di dire di no a chi non può farlo. Abbiamo Mario che ci chiama da Verona, Alberto da Torino. Mario, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei. Buongiorno. Senta, mi interessava in modo particolare questa mattina l'argomento che trattate, perché io, per il lavoro che faccio, cioè dipingo affreschi, eccetera, ho notato una difficoltà nella messa a fuoco. Di conseguenza ho capito che è un calo di vista. Il professore stamattina compara molto spesso l'occhio ad una macchina fotografica. Sì. Quindi la mia domanda è semplicemente questa. Se il cristallino è in sostanza la parte meccanica che mette in collegamento il cervello con il mondo esterno, non c'è nessuna tecnologia, nessun approccio chimico che possa, diciamo, ammorbidire questo cristallino che si è rigidito? Professor Vinci Guerra, questa sarebbe la speranza di Mario anche. In passato è stato protentato con dei farmaci, c'era in passato dalla scuola di Napoli dei colliri che però allo studio poi scientifico non hanno dato grande vantaggio. Adesso si sta provando con i laser a femtosecondi di fare delle microincisioni nel cristallino, ma il tempo adesso dovrà dirci se non diventerà opaco, perché di solito i traumi sul cristallino lo fanno diventare opaco. Quello che però si sta vedendo è che in gran parte la perdita della funzione è perché il cristallino è uno dei pochi organi che cresce tutta la vita. Aumenta il suo volume. Peccato, perché me la tenevo come domanda del quizzettone, però fra poco la ritirerò fuori. E quindi, crescendo tutta la vita, rilascia le fibre che lo comandano e queste perdono efficacia, quindi si sta lavorando in altre direzioni. Ci sono delle novità per cristallino che sappiamo con gli anni diventa più opaco, e, no? Noi parliamo del cristallino sempre per lamentarci, per dire cristallino lo associamo sempre alla cataratta, no? Che è un... Sì. In realtà il cristallino, come abbiamo visto oggi, fa delle cose straordinarie, ma nel caso poi per una serie di ragioni diventasse, invecchiasse un po' e diventasse un po' fanè, ecco, ci sono delle chirurgie che oggi sono diventate per il paziente molto poco fastidiose, perché si fanno in dei hospital con anestesia solo di gocce di collirio, ma soprattutto se prima ci si accontentava di avere una visione approssimata, oggi queste lenti non soltanto correggono il difetto di vista precedente, ma anche l'astigmatismo, che invece è un difetto della cornea. E oggi ci sono anche lenti multifocali che ti fanno vedere da lontano da vicino. Ci sono delle lenti che sono colorate per ripristinare quelle percezioni sbagliate dei colori. Ci sono delle lenti che hanno prestazioni superiori a quelle che aveva il nostro cristallino. Per cui, ancora una volta, diventa importante la centratura. Noi abbiamo acquisito una tecnologia che ci consente di misurare la posizione che avrà il cristallino durante la chirurgia, perché sia nella posizione ideale per dare la massima prestazione. E man mano che lo usiamo ci siamo resi conto come il criterio occhimetrico che usavamo prima, che ci sembrava già buono, è molto lontano da darci i risultati che otteniamo oggi. E quindi anche questa è una scoperta. 800 24 00 24. Vedo Laura Vanossi in regia che è molto soddisfatta di queste nuove benedetta cataratta, verrebbe da dire. Occhi neri e distanti, calamita e diamanti, occhi belli e impazienti, due sparvieri vibranti che ti lasciano muto, tramortito, seduto. E non riesci a capire perché. tra l'altro Fiorella Mannoia ha degli occhi magnifici, occhi belli, neri, distanti, centrati. Però centrati. Potremmo dire, è l'importante che siano centrati. Voi pensate che adesso, per centrare, continuando il discorso di prima, le lenti, noi abbiamo un sistema che assomiglia un po' a quello dei caschi dei piloti da caccia, in cui ci proietta. Abbiamo fatto tutte delle misure prima dell'intervento e durante l'intervento noi abbiamo un'immagine virtuale di questa lente proiettata sulla nostra retina. Quindi all'occhio noi guardiamo nel microscopio operatorio quello che facciamo e dentro la retina vediamo l'immagine virtuale di dove mettere la lente. Dobbiamo sovrapporre la lente che stiamo facendo con le mani all'immagine virtuale per avere il risultato. La tecnologia vi dà altro che mano. Tre mani. Ma guardate che l'oftalmologia è cresciuta grazie alla tecnologia. Era un mondo così piccolo che senza tecnologia non si poteva fare niente. In sala operatoria, ma fuori la tecnologia che utilizziamo nel quotidiano, per la nostra vista, ha cambiato qualcosa? Penso ai tablet, alle... No, adesso leggiamo in modo adesso diverso. Voi pensate quante cose possiamo contenere dentro un tablet. Però, attenzione, se dobbiamo memorizzare, e torniamo al discorso che ci faceva neurologo prima, queste vengono scannerizzate e immagazzinate nel cervello. Voi vi ricordate, quando avete studiato qualcosa, vi ricordate la pagina, magari in basso c'era una figura, e questo vi aiuta a ricordare il resto. Il tablet riorganizza ogni volta il formato a secondo di dove state leggendo per ottimizzare lo spazio, ma questo non facilita la memorizzazione. E spesso anche qui il contrasto, la luminosità non è quella così favorevole di una pagina bianca patinata. E quindi meno buono. Professor Vinci Guerra, ricordiamo rapidamente ai nostri amici da casa due o tre dettagli da non perdere di vista per la salute dei loro occhi, raccomandando di controllare la vista. Soprattutto ci sono delle tappe importanti, dopo i 40 sicuro sì, ma prima, ma anche prima. Prima ai 3-4 anni, poi ai 6 prima di andare a scuola, nell'adolescenza quando cominciano a comparire altre malattie e poi al compimento a maggiore età. Parliamo di quello normale, perché se c'è una patologia sarà il medico a stabilire le tappe successive. Parlando del comfort visivo oltre che la salute, dobbiamo ricordarci che il cervello elabora i messaggi in rapporto ai colori. Cioè, colori in che senso? Se io vedo, ci sono dei colori che si chiamano recessivi, cioè quando li vedo li credo più lontani, dei colori che sono avanzanti, quando li vedo più vicini. Per esempio il rosso e il giallo avanzano, il blu e il verde regrediscono, quindi quando arrediamo casa ragioniamo su questo, perché se andiamo in contrasto la percezione sarà disturbata. E adesso per le amiche di Essere Benessere i consigli del professor Antonino Di Pietro. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Professore, sì. Abbiamo parlato di occhi, sì. Lei deve fare una raccomandazione a noi donne. Ricordo che il professor Antonino Di Pietro è talmente di casa che io mi dimentico di presentarlo, è direttore del servizio di dermatologia all'ospedale di Inzago e anche un esperto del nostro Daily Lab, aggiungo, che vi invito ad andare sempre a visitare. Professore, perché noi donne? Beh, io ho sentito parlare di occhio come di macchina fotografica. Ecco, dobbiamo pensare che questa bellissima e sofisticata macchina fotografica, che è il nostro occhio, viene contenuta in una custodia che non è la custodia di cuoio della macchina fotografica, ma è una custodia di pelle molto delicata, molto sensibile. E quindi dobbiamo imparare a trattarla molto bene, perché è una pelle molto povera, anzi in alcune zone non ci sono per nulla, le ghiandole sebacee, non c'è del tessuto adiposo che serve ad aiutarla a mantenersi forte. Perché anche il grassetto fa la sua funzione. Sicuro, sicuro, certo, e quindi è estremamente delicata. E soprattutto dalle ragazze, dalle signore, viene ricoperta quasi tutti i giorni da trucchi, sì, che in parte possono essere utili perché la proteggono dai raggi ultravioletti, quindi hanno anche una funzione non solo abbellente ma anche un po' protettiva, ma sono sempre delle sostanze chimiche, quindi è buona regola, anzi dovrebbe essere obbligatorio, eliminare sempre le tracce di trucco prima di andare a letto, cosa che non tutti, soprattutto le ragazze, fanno, un po' perché si fa tardi e quindi si va a letto truccate. E stare molto attenti alle sensazioni che si avvertono, perché quando si mette una crema sugli occhi o anche un trucco, quando cominciano ad avvertirsi dei pizzicori, dei piccoli bruciori, vuol dire che si sta diventando intolleranti verso una delle sostanze che compongono questi trucchi, e allora è opportuno eliminarli o cambiare marca, cambiare prodotto, perché cambiando prodotto possono non esserci più sostanze verso cui non siamo più tolleranti. Quindi attenzione, perché la pelle delle palpebre è estremamente delicata e con facilità può alterarsi e dare dermatiti. Quindi professore, anche queste attenzioni dobbiamo averle nei prodotti che noi donne utilizziamo, ma penso anche agli uomini, no professore? Sì, contorno occhi, certo. Rughette, il professor Vinci Guerra mi guarda con tanto d'occhi, sì sì, li usate anche voi, sì, io non so se il professor Vinci Guerra, che comunque proprio prima della diretta qui, anticipavo che ci sarebbe intervenuto il professor Di Pietro, ha detto mi raccomando, sottolineate soprattutto per le ragazze e per le signore di struccarsi, perché noi vediamo in ambulatorio arrivano, lui mi ha detto, donne con trucchi. Ma la cosa dannosa è che io penso che ci sia una linea importantissima da non valicare con il trucco, che è il bordo delle ciglia, perché quando chiudiamo l'occhio, quello che cade sul bordo libero viene spremuto dentro la congiuntiva nell'occhio, che non è predisposto a tollerare questi prodotti. Quindi abbiamo spesso congiuntiviti o cheratiti che si eliminano facilmente eliminando il modo di truccarsi. Sì, qui, quindi, professore, abbiamo 10 secondi. Una cosa ultimissima e importante, risciacquare sempre anche il latte detergente che si usa per struccarsi, va risciacquato sempre con acqua, non va lasciato sulla pelle, perché altrimenti rimangono sempre inevitabilmente tracce di sporco, di polveri dello stesso trucco. Quindi il risciacquo è anche un'altra delle cose obbligatorie da fare. Aspettiamo un post-it sul Daily Lab proprio su questo, professor Di Pietro. Certo, sicuro. Grazie, l'aspettiamo in studio. Grazie al professor Di Pietro, grazie al professor Vinci grazie Guerra, che me lo sono proprio goduto, sì. Ho avuto il piacere di averlo qua in studio. Vi ricordo che la puntata potete sempre scaricarla, andate su Facebook, su Twitter, seguiteci. Grazie professore. Matteo Comes in regia, Laura Vanossi in redazione.